piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Una sfilla da balia per appuntare sulla mascherina l'appello hashtag dateci voce, dicono in coro. Sono economiste, scrittrici, giornaliste, politiche. Tra loro Emma Bonino al primo selfie della sua vita. Si sono preparate per giorni da casa insieme a tante altre donne scrivendo la loro protesta sulle protezioni anti-Covid. Un flash mob fino a stasera alle 10 per ribadire anche per lettera al Presidente del Consiglio che senza le donne non si riparte. (800) 24 0024, preparatevi a chiamare perché oggi parleremo di un tema che senz'altro susciterà qualche malumore in molti ascoltatori. Lo dico perché io, l'ultima trasmissione che feci sulla violenza nei confronti delle donne, c'è stato un ascoltatore che addirittura ha scritto alla direzione di Radio 24 dicendo che io omettevo con grande dolo il fatto che ci fossero molti uomini malmenati, picchiati, maltrattati dalle donne, quindi la mia era una trasmissione fortemente sessista. Quindi c'è questa idea generale che parlare di diritti delle donne significa comunque pronarsi, zerbinarsi a una sorta di ideologia che ancora viene definita con termini arcaici, se vogliamo, con le femministe, con le donne, col boldrinismo, con tutto quello che comunque oggi in qualche maniera è anche facile considerare come cascame deleterio di un mondo che ormai non esiste più. Io non la penso esattamente così. Io feci una trasmissione all'inizio di questa contingenza che stiamo vivendo in una fase probabilmente più rilassata e dissi che una delle circostanze che più mi preoccupavo, che consideravo comunque da tenere da conto, è che noi con il lockdown, con l'isolamento, col fatto che si stava dentro casa, col fatto che comunque avevamo avuto tutti un cambio totale della nostra vita e delle nostre abitudini, ci saremmo incamminati verso una dimensione arcaica che probabilmente ci eravamo lasciati dietro le spalle, perlomeno la parte di noi che più considerava civilizzazione osservare i modelli tradizionali di organizzazione delle masse umane come qualcosa che poteva essere comunque sovrascritto. Ecco, ma vi rendete conto che adesso le donne sono tutte contente di giocare con le lievito madre, di stare a casa, cucinano, fanno i servizi in casa, bello, bellissimo, un ritorno a un'unità familiare, ma anche un ritorno a un'attribuzione abbastanza ferrea dei ruoli. Questo poteva sembrare una mia lettura probabilmente data dall'isolamento, alla contingenza. Poi ieri sento, e lo dico con serenità visto che ha avuto modo un'ora fa di dire la sua proprio al microfono di Radio 24, un senatore della Repubblica, Giuseppe Moles, dire all'indirizzo di una ministra dell'istruzione che la credibilità è come la verginità, facendo un ardito paragone fra la verginità che è difficile da mantenere, che è facile perdere, che in realtà una volta perduta non si ottiene più. Naturalmente da una parte c'è stato chi ha detto che questo, e sono d'accordo, è senz'altro un riferimento fortemente sessista, gratuito, cialtrone devo dire, nei confronti di una donna anche che è giovane e avvenente, che sono delle aggravanti quando si ricopre ruolo istituzionale, ma la lettura generale è che in fondo che male c'è, cosa ha detto di male, potrà dirlo comunque, e lui si è giustificato, ha chiesto scusa, e quindi non ne parliamo più. Però mi sono reso conto che c'è tutto un movimento che non è secondo me confondibile con i tradizionali stereotipi esteriori di chi ha portato avanti le battaglie femministe, che in realtà sta concretamente muovendosi verso le istituzioni, perché al di là di tutte le apparenze, dei buoni propositi, delle giustificazioni, delle scuse, delle prese di posizione, ci si renda conto che magari in un momento come questo stiamo perdendo di vista alcuni dei nostri obiettivi, che tra i quali la parità di genere mi sembrava uno abbastanza ai primi posti. Non dimentichiamo in questo momento il futuro anche del nostro paese, ma di tutta Europa, è soprattutto in mano a tre donne, alla presidentessa della Banca Centrale Europea, alla cancelliera della Germania e la presidente della Commissione Europea, la Lagarde, la Merkel, la von der Leyen, che sono tre donne indubbiamente, mentre nel nostro paese alcune donne hanno provato a dire livello istituzionale, rivolgendosi alla Presidenza del Consiglio, che forse nella task force che in questo momento stava pensando e operando per la ricostruzione del paese, erano un po' poche, 4 donne su 17, e vediamo come è andata a finire. La portavoce di questa iniziativa, che possiamo sintetizzarla con un hashtag, ridateci voce, ma la considero come un'iniziativa a più vasto respiro, è una docente di economia politica all'Università Roma Unitelma e si chiama Azzurra Rinaldi. Azzurra Rinaldi, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Allora, io non sono mai stato considerato uno strenuo sostenitore dei diritti delle donne, anzi spesso mi danno del bieco del maschilista, mi prendo tutti gli appunti che la limitatezza della mia natura agreste, della mia origine, dei miei condizionamenti generazionali e familiari mi hanno dato. Però in questo momento trovo per me divertente ma molto interessante che in un appannamento generale rispetto a quello che si era fatto e si era ragionato del nostro incivilimento di maschi nei confronti delle donne, si stia comunque muovendo in un settore molto particolare, il settore dell'accademia. Ci sintetizza cosa ha fatto, cosa ha scritto e qual è stata la sua richiesta che aveva fatto al presidente Conte e come è stata accolta? Sì, ma guardi, in realtà siamo un gruppo di donne professioniste provenienti da vari ambiti lavorativi, ma le dirò in realtà anche da varie parti d'Italia, e ci siamo ritrovate insieme condividendo questa situazione che poi in realtà è una situazione nota che abbiamo visto tutti la fatica delle donne in questo momento sia nelle attività di cura che per cercare di portare avanti comunque la propria il proprio percorso professionale. Ecco, lei l'ha solo accennato, ma vorrei ricordare che l'80% delle persone che materialmente con le mani sulle piaghe sono occupate di Covid sono donne. Forse questo è sfuggito un po' a tutti. Esattamente, ma oltretutto questo rischio, la situazione attuale, e questo è un po' il nostro punto di partenza, rischia di avere degli impatti incredibili sul mercato del lavoro. Già adesso si parla di un potenziale drop out delle donne lavoratrici che si aggira intorno tra il 20 e il 30%. Cioè, sono donne. Questo da quando momento... si sta notando? Da questi ultimi mesi, diciamo, di emergenza Covid? In questi ultimi mesi di emergenza Covid, ed è legato a quanto lei affermava, al fatto che comunque le donne sono impegnate nell'attività di cura medica, certamente dei malati Covid, ma sono impegnate anche nelle attività di cura, e questo ce lo dice International Labour Organization, sempre per quasi l'80%, quindi occuparsi dei bambini, come lei richiamava, occuparsi della casa. Ecco, questo è stato un po' il nostro punto di partenza. Ci siamo ritrovate in questa situazione, le confesso, di grande frustrazione, così come molte donne italiane lavoratrici. Appunto, abbiamo visto queste fotografie di donne che cercavano di lavorare sullo stesso tavolo con bambini che facevano didattica a distanza, no? Quindi voglio dire, in condizioni effettivamente faticose da un punto di vista sia fisico che emotivo che intellettuale. E da questo, quando poi sono arrivate le nomine dei componenti della task force, effettivamente per noi è stato, devo dirle, una grande sorpresa, molto negativa ovviamente, e questo in una prospettiva che in realtà è una prospettiva, io direi, condivisa, è una prospettiva per cui la diversità comunque è in sé un valore, no? Quindi all'interno di consessi nei quali vengono prese decisioni che poi riguardano tutto il paese, il buonsenso suggerirebbe che dal momento che il 51%, 4 in realtà, della popolazione italiana sono donne, allora anche i luoghi nei quali vengono prese le decisioni utili, e poi in un momento più delicato per il rilancio del paese. Professoressa, non è che uno potrebbe obiettare che mancano le competenze specifiche tecniche in campo femminile rispetto al problema della salvaguardia della salute, della situazione immunologica, di tutto quello di cui parla e ragiona la task force? Mi sembra che non regga questa ipotesi. No, assolutamente, in effetti dopo ce n'erano di donne che potranno farlo sicuramente, ma figuriamoci, guardi, dopo l'iniziativa che noi abbiamo portato avanti come lei rammentava, con questo hashtag appunto dateci voce, noi abbiamo portato avanti questo flash mob proprio nella fase più acuta probabilmente della quarantena. E questo flash mob con le mascherine, con su scritto dateci voce, in realtà ha raggiunto circa 48 milioni di italiani. Questo perché lo dico? Perché evidentemente è un sentire comune, no? Questo senso di, me lo lasci dire, disuguaglianza, no? Nella rappresentanza. Tant'è vero che quando poi sotto le pressioni, non solo nostre chiaramente, ma insomma anche della popolazione, sotto le pressioni, dietro le pressioni che sono arrivate a seguito del flash mob, il Presidente del Consiglio finalmente ha dato seguito alla nostra lettera iniziale con la quale appunto chiedevamo 50% di posti alle donne e 50% di posti agli uomini, non citandoci direttamente, ma comunque aprendo a competenze che è stato facilissimo trovare, quindi le competenze femminili sono state reperite in, io penso, pochi minuti. Non è un problema di presenze di competenze femminili sul territorio, è un problema che peraltro in questi giorni sta emergendo, quindi lo stiamo leggendo, è un problema culturale. C'era ieri un bel pezzo della ministra Fornero che parlava appunto di questa subcultura, che comunque è ancora una subcultura molto diffusa e che fa sì che poi noi effettivamente nei momenti in cui dobbiamo scegliere, diciamo, chi possa portare competenza, magicamente dimentichiamo di rappresentare anche le competenze femminili. Allora, professore, se io volevo lanciare una richiesta al nostro pubblico, di solito è molto attento, si prende sempre il tempo di riflessione nei primi minuti della trasmissione e poi interviene. Il numero è sempre 800240024. Vorrei riferirmi ad alcune situazioni individuali. Voi pensate, nella vostra esperienza individuale, in quello che avete passato in questi ultimi mesi, che in realtà ci possa essere il pericolo di una regressione rispetto alla sovrascrittura dei nostri pregiudizi nei confronti del mondo femminile? Oggi parliamo principalmente del problema della parità di genere nel lavoro, nell'occupazione, nei posti di dirigenza, ma io allargo anche il problema. Io vedo e osservo anche uno slittamento rispetto alla considerazione di alcuni fatti anche ben più gravi. Ho visto, per quello che può avere valore di inchiesta, comunque un servizio delle Iene che è andata a riprendere una per una tutte le donne che avevano telefonato, che si erano lamentate, a iniziare dalla prima pifferaia con la signora picchiata dal marito perché suonava il flauto al balcone, che avevano comunque registrato, denunciato gli atti di violenza familiare. Beh, tutte alla fine hanno detto: ma no, dai, adesso in nome dei bambini lasciamo perdere, non vogliamo denunciare, insomma è tutto passato. Quando poi ieri ho sentito anche il professor Caffo del Telefono Azzurro, che violenze in famiglia si sono naturalmente accentuate in questo periodo in cui la gente forzatamente stava assieme. Ma nel campo del lavoro, della professione, un momento in cui a tutti viene chiesta elasticità, voi come donne, il vostro ruolo femminile, vi sentite in qualcosa sia tornato addietro? Allora, torniamo esattamente al punto che ci avevamo lasciati, Azzurra Rinaldi. Vediamo se lei ha qualche indicatore concreto, al di là delle supposizioni, delle impressioni, che poi hanno un valore molto soggettivo, che in realtà ci possa essere stata una sovrascrittura in negativo, cioè un ritorno indietro rispetto a alcuni passi avanti che venivano fatti, che sono stati fatti nella sensibilità generale rispetto alla parità di genere. Assolutamente, guardi, io parto dalla mia situazione personale, io sono madre, ho tre bambine piccole, quindi come tante madri lavoratrici, io stessa ho sperimentato un momento di fatica e di sofferenza lavorativa in questo momento, che ha reso necessario, ad esempio, nel mio nucleo familiare una riorganizzazione dei tempi, dei luoghi, no, del lavoro, chiaramente tra i due genitori. In realtà, vabbè, questo ci stava in emergenza, va bene. Certo. Adesso l'emergenza sta lentamente scemando. Il bello è che ognuno poi resta al posto in cui stava, tutto sommato alla fine sta meglio a tutti. Questa mi sembra un po' l'impressione. Esattamente, è così, ma guardi, le dico, anche con la prima apertura del 4 maggio, il fatto che nessuno abbia pensato che, avendo le scuole chiuse, comunque qualcuno avrebbe dovuto prendersi cura dei bambini, è in realtà uno dei passaggi che io personalmente reputo più gravi, perché questo è uno dei passaggi che relegano nuovamente, per tradizione culturale anche, no, la donna all'ambito della cura della prole, degli anziani, dei malati, e invece fanno reincarnare nel maschio italiano la figura del breadwinner, come si dice all'americana, cioè di colui che va fuori, procaccia il cibo per la famiglia e ritorna vittorioso. Noi qui abbiamo un problema che già è un problema pregresso in Italia, abbiamo un problema già sul mercato del lavoro, le do qualche numero. Ad esempio, ma aspetta un attimo, Azzurra, perché dobbiamo un momento dare la linea, non le voglio interrompere nel momento in cui dai dati concreti, perché sennò si capirebbe male. Io chiedo al pubblico, soprattutto alle donne in ascolto, quante di voi con il lockdown sono tornate casalinghe e quali sono le vostre prospettive? Come è cambiata la vostra vita rispetto alle vostre attese semplicemente di 3-4 mesi fa? 800-24-0024, ci sentiamo solo tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Melog. Effettivamente la situazione delle donne italiane già prima del Covid era una situazione molto, molto critica, che ora rischia di essere aggravata, ma ci sono anche delle opportunità interessanti. Tasso di occupazione femminile in Italia pre-Covid, gli ultimi dati ufficiali disponibili, è il più basso d'Europa, meno di una donna su due lavora nel nostro paese, se consideriamo il sud del paese siamo addirittura una donna su tre, 33%. Non è soltanto una situazione di bassa occupazione, ma anche quando le donne sono occupate tendono ad esserlo comunque rispetto agli uomini in settori che pagano di meno. In questo grafico vedete alcuni settori, le banche, la farmaceutica, l'ingegneria, le telecomunicazioni, gli oli e gas, che sono quelli che pagano di più, e vedete la percentuale di uomini e di donne. La percentuale di uomini è nettamente superiore a quella di donne in questi settori. Guardate poi, per esempio, con alcune diciamo differenze ancora più eclatanti, guardate l'ingegneria, guardate gli oli e gas, dove le donne sono appena al di sopra del 20%. Questo significa che anche quando sono occupate tendono ad esserlo in settori comunque che pagano di meno e che quindi danno anche minore potere proprio alle donne in termini economici. Voce di Paola Profeta, un economista. Qua parlava in un webinar della giornalista Tiziana Ferraro. Ricordo che la copertina, il primo servizio che abbiamo mandato all'inizio trasmissione, era presa dal TG3 del 2 maggio. Il servizio era di Valeria Papitto. Sono grato a Valeria Bernardi, che mi sta mandando in onda da Milano, Giorgio De Luca in assistenza, a Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Ricordo che sono con la professoressa Azzurra Rinaldi, che è docente di economia politica all'Università di Roma Unitelma Sapienza e promotrice dell'iniziativa hashtag Dateci Voce, che è proprio nata per chiedere l'applicazione della legge sulla parità di genere in tutti i luoghi in cui si prendono delle decisioni istituzionali. Cominciare appunto dalla task force per la ricostruzione voluta da Giuseppe Conte. Mi stava spiegando la dottoressa Rinaldi quelli che erano dei numeri oggettivi, qualcuno ha dato già a Paola Profeta, su questo apparente slittamento all'indietro su un cammino di civilizzazione che stiamo facendo con grande fatica, perché per noi maschi è considerata una violenza rispetto alla nostra natura belluina, me ne rendo conto, però vivere la propria contemporaneità e lavorare anche sul proprio incivilimento, capire che il tempo cambia. Però prima voglio sentire qualche ascoltatrice che ha chiamato all'800240024, invito anche altre a farlo. Elena dalla provincia di Prato, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo appunto Elena David e parlo a nome di In the Boardroom, che è l'associazione che riunisce oltre 300 donne che hanno fatto un master promosso da Valore D per diventare abilitate ai consigli di amministrazione. È un network di competenze e noi siamo completamente, diciamo, in linea con quanto dice la professoressa, cioè la necessità che si attinga a questo bacino di donne competenti, sottolineo, perché questo è il criterio giusto con il quale dovrebbero avvenire le selezioni e le nomine. Però dal mio punto di vista aggiungo anche che è necessario che nel paese si distribuisca e si coltivi una cultura dell'ambizione al femminile. Se si esce dalle grandi metropoli, da Milano, se si esce dal mondo delle multinazionali, purtroppo ci si accorge che la commessa che lavora al supermercato, alla cassa, che magari è una ragazza anche che ha fatto degli studi, ha preso una laurea, eccetera, alla mia domanda ma vuoi diventare direttore di questo supermercato, ti risponde di no perché comunque ha un problema su come gestire i figli, perché il marito lavora, gli orari non si conciliano. Quindi a mio parere occorre, a prescindere dal Covid, che si continui a lavorare sulla cultura delle pari opportunità affinché le donne nascano e crescano con la volontà di potersi affermare nel lavoro così com'è naturale, spontaneo che questo avvenga. Ecco, però le faccio fare una domanda più specifica. Questo in termini generali mi trova d'accordo, è una diciamo linea di principio espressa, teorica. Poi le donne alla fine non si può nemmeno imporre alle donne attraverso l'ideologia quello che devono fare. Se le donne si sentono in certi ruoli probabilmente più protette, più realizzate, colpa in generale di una società che tende a collocarle in un ruolo in cui abbiano ancora bisogno di essere protette e tutelate da un uomo. Ma in questi ultimi mesi ha notato quello che è la premessa di questa trasmissione, che c'è stato un passo indietro, uno slittamento, ma nella percezione generale, nella percezione familiare, per il fatto che ci si trova tutti uniti in una difficoltà? Però guarda, stranamente in questa difficoltà c'è stato un ricollocarsi nei ruoli delle nonne, delle mamme, delle donne di una volta. All'inizio è anche un gioco divertente, come un gioco di ruolo, ma adesso che si sta uscendo dall'emergenza più o meno stretta e spera di non tornarci più, non è che questo gioco di ruolo poi ritornerà ad essere quella che è la prassi, una prassi che c'eravamo almeno a livello di ipotesi lasciati indietro? No, sicuramente sì, l'ho percepito, soprattutto laddove ci sono donne che hanno figli in età scolare e che evidentemente si sono trovati appunto a dover gestire questa presenza a cui non si era abituati e conciliandola con il lavoro e con il mantenimento del lavoro. Poi l'equilibrio familiare, diciamo, in questi giorni ho sentito qualcuno che ha detto non mi piace che mio marito dica ah sì, oggi ti aiuto. Cioè anche in questo caso il principio dovrebbe essere che l'accudimento della casa e dei figli sia naturalmente ripartito. Devo dire che le generazioni più giovani hanno sicuramente questa diversa impostazione. Però se mi consente tornerei un momento su quello che lei diceva prima. Assolutamente io non credo che si debba imporre alle donne di avere una cultura dell'ambizione, però desidero sottolineare che oggi le condizioni del welfare generale non sono tali da consentire alle donne di sviluppare la medesima diciamo ambizione, e se questo lo uniamo ai fattori culturali per i quali effettivamente ancora nel nostro paese, in una società fortemente matriarcale dove la cura della famiglia è prevalentemente femminile, credo che costituiscano un handicap importante rispetto allo sviluppo della carriera femminile. Volevo sentire un attimo Miriam da Bologna, che è una situazione più legata a un'esperienza semplice, generale. Lei eppure fa parte di un gruppo organizzato, ha una sua costruzione e un lavoro che ha fatto nell'ambiente che la circonda. Miriam da Bologna. Sì, salve, buongiorno. Lei è semplicemente madre e educatrice nelle scuole, scrive. Sì, esatto. Quindi parli per se stessa. Sì. Dunque, io sto vivendo praticamente una seconda quarantena, nel senso che purtroppo, ahimè, il coronavirus ha portato a far sparire totalmente i bambini e adesso ancora non se ne parla, non se ne è mai parlato, e come se comunque sia scontato che la mamma debba occuparsene. Magari dovendo anche gestire un lavoro a distanza, dovendo portare avanti questo indubbiamente data. C'è stata una riattribuzione di ruoli abbastanza drastica. Poi guardi che il paradosso, che alla fine tutte le mamme, dalle mamme più illuminate, le mammine pancine che nel tempo mi hanno contattato per dire scendiamo in piazza, protestiamo, paradossalmente il bersaglio è stato trovato un colpevole anche tutto in questo, che è appunto la ministra Azzolina. Quindi le donne alla fine hanno trovato in una donna la colpevole del loro ruolo, che non è così, non può essere una situazione molto complessa. Avrei voluto chiunque in questo momento a dover prendere decisioni di questo livello. Con tutte le critiche che si possono fare in questo momento alle istituzioni, non è stata qualcosa che ha un precedente nella storia della nostra Repubblica, devo dire. E essere i primi a dover prendere delle decisioni su un campo un po' difficile, perlomeno merita un minimo di attenzione prima di giudicare. Allora torniamo ad Azzurra Rinaldi. Azzurra Rinaldi, vediamo se può dare un commento innanzitutto alle due telefonate. Una è una telefonata di una persona che si muove nel suo ambito, l'altra una donna che sta a casa e si rende conto che in effetti qualcosa è cambiato e c'è il rischio che passerà molto tempo prima che si ritorni perlomeno al livello di prima. Sì, guardi, devo dire, sono assolutamente in linea con il sentire che percepisco nelle due telefonate. C'è un tema che è questo del lavoro, no? Di sfondo. La donna che lavora, donna che non lavora, e anche nella prima telefonata. Il concetto fondamentale è il concetto di scelta, cioè l'obiettivo deve essere che le donne debbano essere esattamente come gli uomini, libere di scegliere se dedicarsi totalmente all'accudimento o se invece dedicarsi all'attività lavorativa. In questo io devo dire che quello che stanno facendo le famiglie anche in questo momento è una scelta anche razionale da un punto di vista economico, cioè la scelta di mandare l'uomo a guadagnare e invece la donna a occuparsi comunque dei bambini che non sono coperti da servizi scolastici. Voglio dire, è una scelta razionale, perché effettivamente nel nostro sistema molto spesso il partner maschile ha un lavoro più sicuro. Cioè l'uomo guadagna di più oggettivamente, quindi in una scelta di economia familiare è chiaro che va a lavorare chi guadagna di più in quel momento. Esattamente, però è sbagliata in partenza la premessa, non dovrebbe essere così. Assolutamente, lei capisce che questo è un fallimento dello Stato. Certo, no? Sì. Questo è un fallimento dello Stato che evidentemente non è intervenuto. Emerge un problema, che gli uomini guadagnano comunque di più, sennò sarebbe una scelta presa diversamente. Assolutamente, ma le dico anche, le donne per esempio in Italia, fatto 100 il numero di coloro che scelgono, che comunque hanno un contratto part time, il 75% sono donne. Anche questo è un segno di vulnerabilità sul mercato del lavoro, quindi è chiaro che poi le famiglie scelgano per chi ha un contratto a tempo pieno, più retribuito. Però guardi, questo momento, un momento di crisi, in realtà come tutti i momenti di crisi, ha in nuce delle grandi potenzialità, e una di queste potenzialità è proprio utilizzare questo momento di crisi per rimodulare anche la nostra visione dei ruoli. In questo, come lei diceva giustamente... Ma posso fare una domanda? Mi viene in mente mentre parla lei, ma come mai le insegnanti delle scuole primarie sono tutte donne? Perché gli uomini non fanno più quel lavoro e viene lasciata alle donne? Cioè l'idea che comunque la donna così ha più tempo per occuparsi dei bambini, della famiglia, si fa l'insegnante, quindi occupa meno ore della propria giornata nel lavoro. Guardi, mi è venuto in mente così, gliela metto proprio come è passata per la testa. Perché anche questo è un segnale. Gli uomini non fanno più maestri, non si occupano più di bambini perché lo fanno le donne. Ma perché lo fanno principalmente le donne? Che anche questa è un'altra cosa che non funziona così. In realtà è un po' come i medici adesso sempre più le fanno le donne, non le fanno più gli uomini. Sui medici è un altro discorso chiaramente, ma sulle maestre in letteratura noi lo troviamo, da un lato perché tutte le attività in cui ci si prende cura degli altri generalmente sono attività che vengono attribuite comunque a un immaginario femminile, quindi le donne, magari alcune donne più facilmente si ritrovano. Un altro fattore fondamentale è perché comunque si ha più tempo per prendersi cura della famiglia. Questo nostro modello in realtà veramente rappresenta un fallimento dello Stato. Allora, fermo un attimo, Azzurra Rinaldi, mi dispiace averla interrompere così bruscamente, ma sono già un minuto fuori delle informazioni del traffico, riprendo con lei proprio fra un istante. Melog 800240024, vedo adesso che è stata fatta proprio una ricerca commissionata da Ipsos, donna e cura al tempo del Covid-19, che più o meno conferma quello che noi stiamo dicendo. una donna su due ha rinunciato almeno a un progetto a causa dell'emergenza, contro due uomini su cinque. Quindi, diciamo, il sacrificio richiesto alle donne rispetto alle proprie aspirazioni professionali è stato indubbiamente il doppio, perlomeno, come minimo, se non più, rispetto a quello chiesto agli uomini. Azzurra Rinaldi, riprendiamo, scusi, con il filo che le ho interrotto. No, si figuri. Appunto, in realtà, dicevamo, c'è un problema di rimodulazione che è un'opportunità che noi troviamo anche nelle crisi. Siamo un paese che ha una proiezione di contrazione del PIL del 9,5%, abbiamo metà della popolazione che non lavora e è piuttosto intuitivo che invece agevolare l'ingresso di questo 50% di popolazione che non lavora sul mercato del lavoro contribuirebbe invece ad andare in una direzione, come si dice, anticiclica, cioè contribuirebbe invece a far aumentare la ricchezza per tutti. Quindi la prospettiva su cui noi ci dobbiamo trovare, donne e uomini, è una prospettiva condivisa, come lei giustamente affermava nell'introduzione, non è una battaglia femminista, è una condizione di raggiungimento dell'efficienza da cui in realtà beneficiano tutti, sia donne che uomini. Sì, però guardi, lei sa meglio di me, perché ha approfondito il problema, glielo dico da bieco rappresentante del genere maschile. Fondamentalmente, e conta anche molto, il livello di sicurezza, di complicità, di affermazione di un pensiero arcaico che tutto sommato cementifica gli uomini che occupano posti di rilievo. La donna è sempre considerata, ho letto le intercettazioni dei magistrati pugliesi, bambolina mia, la collega era la bambolina, semplicemente perché era donna, aveva dignità, aveva fatto inchieste, comunque era una donna rispetto all'uomo era la bambolina. La ministra, perché è giovane e indubbiamente avvenente, può beccarsi anche un collega che gli dice pensa alla verginità piuttosto che alla pensa alla verginità per vedere la tua credibilità come è stata messa precariamente in difetto. E che è una cosa, la trovo molto bieca sinceramente. Poi che l'opinione generale di Carmen, che vuoi che sia una battuta, ripeterei con un altrettanto bieco principio: ma se lo facessero a tua sorella, a tua moglie, alla tua fidanzata, come reagiresti? Ecco, pensate un attimo questo. Ecco, Azzurra Rinaldi, mi scusi la digressione. No, guardi, assolutamente ragione. Il problema è innanzitutto un problema culturale, e questo è in realtà il muro contro cui tutte noi nella nostra vita personale, professionale, soprattutto se siamo giovani, e soprattutto, come lei dice, in realtà ancora peggio, paradossalmente, se si ha la sfortuna di essere avvenenti. Quindi si percepisce questa grande fatica nel dover comunque lavorare di più, nel dover dimostrare di più rispetto ai colleghi uomini, nel dover sostanzialmente faticare di più. Questa era una delle basi, in realtà, di condivisione da cui è nata anche l'iniziativa Dateci Voce. La necessità che anche per le giovani donne, e mi ricollego a uno dei due interventi delle telefonate, vi siano comunque dei modelli di ruolo a cui riferirsi, no? A cui fare riferimento, sentire che effettivamente anche le giovani donne possono farcela, non dobbiamo metterle anche loro nella condizione di scegliere fra avere una famiglia e poter avere una carriera professionale di successo e gratificante. Sì, perché poi, diciamo, tutte le forze politiche, ideologiche che maggiormente si fanno portatori del valore della famiglia, chissà perché poi è un valore che tende a ricollocare i ruoli tradizionali, sono quelle che poi scrivono i ruoli quanto è bello essere sottomesse, quanto è bello essere mamme, come se essere mamme corrisponde a essere per forza mamme pancine, che è il termine, l'esagerazione grottesca e drammaticamente ridicola dell'essere madre, le madri che si sentono di essere idolatrate per il fatto che hanno messo al mondo un bambino e vivono soltanto nell'ammirazione e nella sudditanza dei loro mariti, per cui fanno il dovere. Questo è per fare una digressione. Velocemente, Franca da Cagliari. Buongiorno. Volevo ricordare un'intervista di una scienziata che diceva aveva 5 figli, dirigeva un importante istituto, e 5 figli, e diceva che suo marito non, cioè il marito non è quello che ti lava i piatti, ma è quello che ti dice vai avanti. Bello, sì, bello, bello in teoria, però mi sarebbe piaciuto questa mattina sentire più situazioni concrete. hanno chiamato molte donne, veramente, ma nessuna ha lamentato sul piano personale di subire sulla propria carne, sulla propria emotività, nel proprio ordinamento familiare, quello che abbiamo detto. Quindi le cose sono due: o noi siamo degli osservatori pessimisti della realtà, o ancora le donne hanno un grande timore a uscire dal loro ruolo. Lei come la vede, Azzurra Rinaldi? Ma guardi, c'è un grande problema di condivisione, secondo me, è anche un grande problema di aspettativa. Questa realtà delle mamme pazzine, e le ripeto, io sono una mamma di tre bambine, quindi non è una realtà da cui io personalmente mi sento distante, avendo avuto tutti questi figli fuori dalla media italiana. È un problema di narrazione, e però, come vede, si ricollega sempre a questo ideale della scelta, no? Dover scegliere, se sono mamma sono solo unicamente mamma, i miei unici meriti vanno ricondotti. E questo mi sembra chiaro, Azzurra Rinaldi. La sigla ci dice che l'unica scelta posso fare in questo momento è salutarla e lasciare la linea. Riprenderemo questo tema quanto prima. Grazie a tutti.